12:15 minuti puntualissimi inizia questa nuova puntata di Maldestra, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Sono polvere la storia. Scontato dire che questo giorno di festa fatto di parate militari non ci coinvolge più di tanto, non ci blocca neanche il maltempo imprevisto di quest'oggi su Roma. Ho bisogno di respirare perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. Con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio. Non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? A sigla ancora in corso, andiamo subito a collegarci con l'altra voce, diciamo, più costante di questa trasmissione, che ci manca talmente tanto che siamo andati a raggiungerlo anche in quel di Bologna per raccontarci il Festival delle Culture Antifasciste che si è svolto appunto in questi giorni a Bologna, al Parco delle Caserme Rosse, un luogo storico della memoria della Seconda Guerra Mondiale, della dittatura fascista e della resistenza per la città di Bologna, e nel quale negli ultimi quattro giorni si è svolto un meeting nazionale e non solo, appunto delle cosiddette, diciamo, chiamiamole culture antifasciste, di tutto quel variegato universo della diversità e della conflittualità sociale che appunto ha trovato in questi quattro giorni un modo per incontrarsi. Ti lascio la parola intanto per qualche impressione generica e poi raccontarci esattamente cosa eri andato a fare proprio tu, diciamo, da romano in quel di Bologna. Sì, allora, io spero che mi sentite nonostante il vento che si sente che benissimo. Qua. Ah, perfetto. Zero, allora, scuse. Sì, in realtà il contingente romano è arrivato già da qualche giorno, ha avuto anche dei momenti in cui ci sono state discussioni anche nello specifico sulla città di Roma, anche se in verità noi siamo, io e qualche altro compagno, siamo arrivati soltanto ieri pomeriggio e siamo stati letteralmente rapiti dalle mille cose che c'erano da fare e da acchittare per l'incontro con i compagni russi che in qualche modo avevamo preparato. Due parole comunque sul festival, almeno su quello che siamo riusciti a vedere noi, è che l'impressione è comunque di una sfida che è stata vinta, o almeno una delle tante sfide, qualcuna delle tante sfide che rappresentava questo festival sicuramente è stata vinta. Sicuramente quella della partecipazione, visto che l'impatto è notevole, qui si parla di 3.000 persone al giorno che l'hanno attraversato, io onestamente non so se poi effettivamente, non mi sono messo a contarle, però è che penso sia realistico, nel senso che pure in una giornata di pioggia come quella di ieri, il festival anche nei momenti di minore afflusso non vedeva mai meno di 200 o 300 persone attraversarlo, i tavoli sono stati tutti molto partecipati, parliamo di tavoli che c'erano da un minimo di 50 a un massimo di 150 tra partecipanti, gente che ascoltava e quant'altro. Insomma, quindi sicuramente da questo punto di vista la scommessa degli organizzatori è stata vinta. Su quanto poi tutto ciò si andrà a tradurre in attivazione e campagne e quant'altro, immagino che si vedrà nei prossimi mesi, e comunque magari ve lo potrò andare ad raccontare un po' meglio chi è riuscito a seguirsi un po' più le discussioni e tutto. Invece rispetto a quello di cui magari volevamo parlare adesso, è che ne parliamo sperando di interessare anche gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, visto che sono appunto questi compagni russi che stanno in tour in Italia e che verranno anche a Roma sabato questo, insomma, tra la fine della settimana, non so che data è, penso il 6, sabato 6, e che verranno a incontrare i compagni romani in quel del Forte Prenestino alle 17, se non sbaglio. Allora, l'incontro che c'è stato è stato sicuramente molto significativo, perché è stato il primo incontro tra i compagni russi e i compagni italiani, che è in qualche modo è magari sembra un po' ambiziosa questa frase, però bisogna dire che il movimento russo è un movimento estremamente giovane, in realtà nato diciamo dopo la fine dell'Unione Sovietica, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la società russa si è trovata abbastanza allo sbando, lasciando completamente un vuoto di cultura politica a sinistra, e anzi aprendosi invece a tutta una serie di tesi e di diciamo recettività a tutta una serie di ideologie neonaziste che si sono poi diffuse capillarmente all'interno della società russa, e quindi ha visto crescere a dismisura tutta una serie di movimenti xenofobi e di attrazione per i giovani rispetto a tutto questo ambiente, che hanno trasformato di fatto la Russia nel paese in cui più violenta è la violenza di strada xenofoba, e più attive sono le bande naziste di strada. Di questo già ne abbiamo parlato svariate volte in questa trasmissione. Quello di cui magari abbiamo parlato poche volte sono le risposte che sono cominciate ad esserci in Russia, visto che poi negli ultimi 5-6 anni c'è stato, se non veramente un'inversione di tendenza, quantomeno un inizio di risposte, un inizio di reazione rispetto a questa situazione, anche se ovviamente ci dobbiamo immaginare che sono reazioni e risposte molto diverse da quelle che possiamo conoscere noi come movimenti sociali e anche movimenti antifascisti in un contesto come il nostro, perché parliamo di ragazzi molto giovani che di fatto nel vuoto che ha lasciato il crollo dell'Unione Sovietica hanno dovuto ricominciare da zero. Quindi anche le forme di resistenza, le pratiche, sono qualcosa che loro si sono inventati giorno per giorno partendo dal nulla. Quindi parliamo di ragazzi di 14, 15, 16, 18 anni, quelli che sono di noi sono tra i più grandi di questa giovane scena antifascista e hanno, se non sbaglio, 21 o 22 anni, e che si sono aggregati intorno a modelli, diciamo, prepolitici, magari modelli di sottoculture o concerti o scene musicali, che si sono trovati in qualche modo a doversi difendere da queste continue aggressioni dei nazisti. Guarda, solo una cosa. Tra l'altro, negli ultime settimane è stato diffuso un documentario veramente interessante, che da quello che è stato anche proiettato a Bologna, che è Antifascist Attitude. Esattamente, tra l'altro gli ospiti, diciamo, che abbiamo invitato, questi compagni russi, sono se non proprio quelli del documentario, comunque diciamo sono rappresentanti di quella scena antifascista che si vede in quel documentario, che è stato proiettato a Bologna. In realtà è stato un po' sacrificato perché l'incontro è stato molto lungo, quindi il documentario si è riuscito a proiettarlo in un secondo momento, comunque ha avuto tantissima gente che l'ha guardato, e quel documentario in qualche modo esemplifica bene anche la giovane età e un po' se vogliamo anche l'ingenuità per certi versi di questo pure giovanissimo movimento. Quantomeno il fatto che è molto legato anche a forme controculturali, in qualche maniera questa sua genuinità si rispecchia anche nell'essere, rappresentare una, anche, e questo magari volendo è anche un linguaggio ovviamente molto più semplice per entrare dentro una società, appunto dal punto di vista delle rivendicazioni sociali, particolarmente allo sbando, anche quello di una rivendicazione di stile, bene o male, e di attitude, insomma, di attitudine, di assolutamente esatto rispetto a questo. No, vai, continua. No, era insomma rispetto magari invece poi a quelli che poi sono i contenuti, ovviamente c'è un fortissima impronta antirazzista da quello che abbiamo potuto vedere. Assolutamente, infatti diciamo che tutto i contenuti sono appunto fortemente antirazzisti, fortemente antifascisti, e è buffo come i compagni russi si siano trovati poi un po' spaesati di fronte invece a quella che era la realtà del festival antifascista, perché loro sono abituati appunto ad averci, la società russa è una società, come immagino sappiamo tutti, dove con un altissimo grado di repressione rispetto al dissenso, alle lotte sociali e quant'altro, anzi anche parlare proprio di lotte sociali comunque non significa parlarne nei termini con cui ne parliamo in Italia. Quindi per loro l'antifascismo è qualcosa che in qualche modo è indissolubilmente legato alle sottoculture, perché al di là di ovviamente gli immigrati che si vivono questa situazione giorno per giorno, ma che non riescono ad esprimere, non riescono comunque a in qualche modo organizzarsi rispetto a questa cosa, per i motivi che poi conosciamo anche noi, relativi a ovviamente la condizione di clandestinità, di precarietà della vita dei migranti e degli immigranti, però insomma per loro invece la presenza di famiglie, attori sociali diversi da quelli che possono essere il punk del concerto oppure comunque legati alle sottoculture, per loro era stata anche una piacevole novità e in qualche modo uno dei motivi anche più significativi per cui abbiamo deciso di invitarli era per consentir loro di uscire dalla realtà russa e di confrontarsi anche con quanto si muove in senso antifascista nel resto del mondo. Tra l'altro uscire dalla realtà russa è una cosa molto difficile ovviamente, perché la libertà di circolazione è ovviamente un film, portarli qua è stato un film di visti, problemi burocratici, una spesa economica anche molto ingente, e molti, tanto che c'è stata una vera e propria gara tra di loro a Mosca, tra chi sarebbe potuto venire qui in Italia, quindi ci hanno tenuto anche tutte le realtà moscovite ma anche delle città vicine a mandare attraverso questi due compagni un contributo scritto, comunque qualcosa da leggere, un CD da distribuire, comunque qualcosa che consentisse di far vedere in Italia che poi anche la più piccola cittadina russa in qualche modo si sta organizzando, sta creando la sua scena antifascista e quant'altro. Io poi non so, un'altra, diciamo un po' l'ultima cosa che mi era venuta anche in mente rispetto a questo incontro è stato che non parliamo, cioè questo incontro non è solamente una questione di internazionalismo, di solidarietà in qualche modo fino a se stessa, ma secondo noi probabilmente è anche un occhio rivolto all'Italia rispetto, perché ovviamente con tutte le differenze di contesti e di ovviamente due società che non si possono paragonare né per il grado né per proprio la composizione né per anche il grado di violenza e di efferatezza presente anche nella società russa e quant'altro, però ci sono invece una serie di paragoni che si possono fare quantomeno sul fatto che la Russia, o comunque il modello russo, viene guardato con attenzione dalle nostre destre sia istituzionali che radicali, che se non è probabilmente una sorpresa che il nostro premier Berlusconi guarda il modello putiniano delle oligarchie, del controllo delle informazioni e quant'altro con interesse, gli ha anche più volte attestato stima, solidarietà e quant'altro, ma anche tutto l'arcipelago della destra radicale italiana in realtà si fa sempre più interessato a quello che è il modello Putin, il modello dell'uomo forte, decisionista, questa cosa qua penso che si possa vedere anche da tutta una serie di conferenze e articoli e quant'altro sta circolando da ormai qualche anno addirittura nell'arcipelago dell'estero radicale. Oltre a questo ci sono tutta una serie di altre in qualche modo cose che ritornano dal continuo aiuto che i nazisti si trovano nelle aule di tribunale da parte di poliziotti, giudici e quant'altro, che tendono a privare tutte le loro azioni, anche le più efferate, le più smaccatamente naziste, le privano di qualsiasi contenuto politico, derubricandole ad atti di teppismo, e questa è una realtà che noi conosciamo bene anche come compagni, come abbiamo visto quando tante volte ci sono stati strappati dei compagni, come penso a Davide Cesaro, penso a Renato Biagetti, e con vere e proprie aggressioni fasciste che poi sono state considerate come risse tra balordi, oppure a tutto quello che sta succedendo nella città di Roma, da Tor Bella Monaca a tutte le varie periferie, in cui bande di pischelli compiono magari aggressioni xenofobe, e tutto questo viene racchiuso sotto il marchio di bullismo, che in qualche modo ricorda da vicino la dinamica che avviene in Russia, ovviamente fatte le dovute proporzioni, senza voler poi paragonare quelle che sono sia i numeri che molto spesso l'efferatezza di quanto succede. Io non so se c'è altro da aggiungere in realtà, o se dare appuntamento agli ascoltatori e alle ascoltatrici al Forte Prenestino per sabato 6 alle 17. Sì, mi sembra la cosa migliore per chiudere, anche perché appunto penso la viva voce, l'incontro con questi attivisti e attiviste russi abbia comunque senso che venga fatto anche di persona. Sì, una cosa, se vogliamo, anche un po' per gli ascoltatori, per spiegare proprio una parola, per spiegare come avverrà l'incontro prevede in realtà la proiezione prima di un video che è Dalla Russia con Odio, che è un video diciamo, se vogliamo, istituzionale di informazione, con un taglio molto giornalistico, ma che in qualche modo ha il pregio di mostrare quella che è la realtà delle bande neonaziste di strada. Poi ci sarà il vero e proprio incontro con i compagni, che quindi potranno anche commentarlo, raccontare le loro pratiche e quant'altro, e mentre invece in chiusura verrà proiettato il video a cui accennavi te, che è Antifascist Attitude, che è il video autoprodotto dai compagni di Mosca. Va bene, allora ti auguro e auguro a tutti e tutte voi un buon giro, perché tanto vi muoverete per il nord Italia nei prossimi giorni, quello che avevo capito. Assolutamente, domani andiamo a Torino, dopodomani a Bergamo, e con una tappa intermedia ad Orvieto, poi torniamo appunto a Roma entro sabato. Allora a sabato. Va bene. Un abbraccio. Ciao ciao. Ich laufe durch die Weldinger Straßen und ich weiß, die Gossen Kinder gucken. Sie heben ihre Hand und zeigen auf mich, als wären sie Hitlerjungen. Fick, das ist Welding und hier gibt man einen Fick auf Missgeboten. 90% der Bevölkerung hat die Nase voll und Kiff verlungen. Doch im Welding ist es kackegal, denn wir machen die Nacht zum Tag. Geben einen Fick auf Staatsanwalt, denn wir haben keine Angst vor der Strafanstalt. Was Papa Staat uns sagt, wird mürrisch in den Sand verfrachtet. Und ich weiß, dass er weiß, dass 6 Fuß tiefer auf ihn Satan wartet. Meine Partner waren immer neben mir Blut. Hey, Wendy. 5-6-ig, Dein Eltern, gruppo di rap hardcore berlinese, Von Block zu Block è la canzone. E utilizziamo questa colonna sonora per dare alcuni appuntamenti del comitato di sostegno per gli arrestati del 1 maggio berlinese. Questo comitato di sostegno, appunto, ha organizzato questi appuntamenti per creare una rete di solidarietà e mandare un po' di informazioni in giro per l'Europa rispetto agli arrestati del 1 maggio berlinese. Alle rümpfen sie die Nase. Il primo si svolgerà mercoledì 3 giugno, una serata benefit per i 17 detenuti di Berlino allo Strike SPA. Ci sarà dalle ore 20 una cena, a seguire un po' di musica, e tutto il ricavato sarà devoluto per il sostegno e le spese legali. Il 4 giugno invece due appuntamenti: il primo al Forte Prenestino dalle ore 20, la lettura collettiva con dibattito dell'insurrezione che viene del Comité Invisible, con interventi dei comitati sostegni italiani e francesi. Una notte di lotta alla repressione e allo stato d'eccezione, dice il flyer. E dalle 18 invece presso il Loa Agrobox Project verrà Un giorno meraviglioso come oggi, una presentazione di questo, di un libro omonimo con gli autori gli autori e il protagonisti della stagione delle lotte degli anni 70 tedeschi del movimento 2 giugno, un movimento nato per ricordare la data dell'omicidio di Benno Honeysorg a Berlino, appunto il 2 giugno, se non sbagliamo, del 67, che diede vita appunto a uno di quelle schegge di memoria di movimento importanti da ricordare, perché parte non solo del patrimonio ovviamente culturale e storico dei compagni tedeschi, ma volendo di tutti e tutte noi. Was los? Was los? Rapper Pimp und Illa Mac. Dann wen wollt ihr was von der Straße erzählen? Dann wen? Ihr könnt uns nichts erzählen. E ancora con Dein Eltern, Straßenregeln, un'altra canzone da Wedding 65, quartiere al nord di Berlino, per ricordare questo comitato che è il cui sito, insomma, per chi lo volesse vedere, si tratta di sostegno, se non sbagliamo un attimo, sostegno primomaggio.noblogs.org, in cui sono riportate tutte le date di queste e gli orari di questi appuntamenti in sostegno con i 17 ragazzi che sono stati arrestati durante gli scontri lo scorso primo maggio a Berlino, in cui le pene appunto arrivano fino a 6 mesi carcerazione preventiva, per non parlare poi dei rischio di galera per fino, insomma, vanno dalla devastazione al tentato omicidio. E non perché sia probabilmente, insomma, più importante degli altri, ma perché ovviamente ci riguarda da vicino. Fra loro ricordiamo anche un italiano di Roma, e così come un greco, un turco, un polacco e quattro minorenni tedeschi. Mach was draus, leb dein Traum, bau ein Haus, such die Frau, die dich braucht, die du brauchst, und bau mit ihr eine Zukunft. Luft auf. Das hier ist unser Leben, Leben nach Straßenregeln. Wir haben schon so viel erlebt, was wollt ihr uns erzählen? Geprägt von der Straße, gejagt vom Mannschaftswagen. Die Last auf unseren Schultern kann nicht mal ein Kran tragen. Das hier ist unser Leben, wir haben Stolz und Ehre. Es ist ein Teil von uns, wie das Blut in unseren Venen. Graue Wolken ziehen auf und der Asphalt brennt. Blicken der Gefahr ins Auge, weil man uns nicht anders kennt. Kennst du das, wenn du alles gibst und nicht zurückbekommst? Ja, denk an mich, hör den Song. Das ist meine letzte Chance, aus dem Dreck rauszukommen. Ich hab noch so viel vor. Schritt für Schritt kämpfe ich mich bis zu meinem Ziel vor. Die Zukunft so gewiss, keiner weiß, was morgen ist. Was passiert? Was der Morgen bringt oder aus uns wird. Vielleicht ist heute schon unser letzter Tag. Tag für Tag leben wir, als wäre es unser letzter Tag. E nel mentre che aspettiamo il nuovo collegamento, salutiamo invece una voce, si trova a Bologna, un'altra incredibilmente, forse causa il giorno festivo, si trova invece qui in studio. Scheißegal was auch passiert, was hab ich schon zu verlieren. Was ist aus meinem Leben hier, für mein Ziel wird's investiert. Yes, genau wie Rapper baue ich auf bessere Zeiten. Genau. Keiner weiß was kommt, doch irgendwie geht alles weiter. Das hier ist unser Leben, Leben nach Straßenregeln. Wir haben schon so viel erlebt, was wollt ihr uns erzählen? Geprägt von der Straße, gejagt vom Mannschaftswagen. Die Last auf unseren Schultern kann nicht mal ein Kran tragen. Das hier ist unser Leben, wir haben Stolz und Ehre. Es ist ein Teil von uns, wie das Blut in unseren Venen. Graue Wolken ziehen auf und der Asphalt brennt. Blicken der Gefahr ins Auge, weil man uns nicht anders kennt. Was los, Raper? Alles klar, Bruder. Yeah. Ich glaub, das war deutlich genug. Ich glaube auch, Alter. Ich glaub, sie haben uns verstanden. Besser für sie. Alle reden von der Straße. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder, ja? Aber keiner hat Ahnung von der Straße. Na, keiner von denen, Mann, Alter. Wir sind die Straße. Hast du gehört? Hier. Rapper Pimp. Yeah. Illa Mac. Wer sonst? Tupac Berlin. Jetzt sind wir am Zug. Yeah. Das ist der Scheiß, der Mann. Der wahre Scheiß. Was ist los? Habt ihr gehört? Yeah. E torniamo in diretta con un nostro corrispondente usualissimo, soprattutto per quanto riguarda delle appunto panoramiche come quella che andremo a fare a livello europeo, internazionale, questa volta proprio perché di elezioni europee si andrà a discutere, di elezioni europee, appuntamento elettorale del prossimo fine settimana, in cui non solo in Italia ma in tutta Europa più o meno si giocano delle partite che a noi non ci sembrano così importanti, ma che invece per quanto riguarda l'estrema destra europea in tutte le sue declinazioni, da quella più populista, quella xenofoba, antisemita, eccetera eccetera, invece diventa un banco di prova importante sul piano della legittimità dei loro stessi movimenti all'interno dei paesi di origine, ma tanto quanto invece su uno dei poi dei terreni di lotta più importanti, cioè quello della identità nazionale rispetto invece alle al dibattito identitario e euroscettico poi fondamentalmente che portano avanti. Questa che sembra una contraddizione, ci chiediamo come possa essere articolata in un panorama europeo che appunto ormai vede un'Europa talmente allargata da includere anche quei paesi dove più volte abbiamo raccontato essere forte il ruolo della estrema destra neofascista, postfascista, insomma, come a seconda che l'esperienza storica di ogni paese può articolare. Ne parliamo direttamente con te, ti lasciamo direttamente il microfono e a questo punto dici un po' quello che hai ragionato in base su questo argomento. Sì, ciao a tutti, buongiorno a te, agli ascoltatori. Ma diciamo che le elezioni europee sono tradizionalmente un terreno particolare dal punto di vista, diciamo, delle competizioni elettorali, nel senso che sono più sganciate spesso da logiche politiche nazionali in senso stretto, hanno di base tradizionalmente una partecipazione molto bassa, il che spesso contribuisce a premiare diciamo, le forze che più puntano su elementi identitari, diciamo, di affezione al voto, tanto da poter portare comunque, insomma, i propri elettori al voto, e rappresentano anche in qualche modo spesso una sorta di occasione per gli elettori. Ti sentiamo a scatti. Ora mi senti? No, adesso Pronto? Ti sentiamo veramente poco. Aspetta, vediamo un po' se così. Ritentiamo il collegamento. Ich mach 30 Liegestütze mit diesen Jungs auf meinem Rücken. DLTV, CCKIZ, stürm deine Hütte. Wahre Fleischberge hinterlassen Leichen und Krüppel. Keiner kann mit uns ficken, denn wir sind Helden im Viertel. Tagsüber arbeite ich in der Fleischfabrik, lerne Anatomie, stemme Schweinehälften am Spieß. Nachts übe ich an Opfern in Metzgermeistermanier. Du fragst, warum behandeln dich deine... Ritorniamo in diretta, un secondo per risolvere un altro piccolo problema tecnico. Eccoci, allora okay. Possiamo allora, riprendere senti... la nostra chiacchierata. Ok, arriva la voce, sì? Adesso arriva, sì. Ok, niente, no, stavo dicendo che insomma le occasioni, le elezioni europee sono sempre un'occasione particolare rispetto alle elezioni normali. Non è la prima volta che, diciamo, le forze identitarie o xenofobe ottengono dei buoni risultati in questo tipo di consultazioni. C'è da fare una premessa, io credo. Tu dicevi come conciliare i diversi elementi, diciamo, che animano queste forze. Intanto credo che questi fenomeni vadano osservati proprio per quello che sto per dire, su un piano complessivo che mette sempre più insieme quelle che siamo abituati a considerare destre radicali, gruppi estremisti. Addirittura nei paesi dell'est ci sono movimenti che fanno riferimento alle culture politiche del fascismo e del nazismo, delle culture del collaborazionismo del periodo tra le due guerre mondiali. Queste forze estreme a quello che ormai va sotto il nome di conservatorismo, nuovo conservatorismo, il centrodestra europeo. Che cosa accade? Accade che molto spesso all'insegna di quello che viene definito come euroscetticismo, in realtà si coagulano una serie di elementi per cui perfino forze politiche che governano nei loro paesi tendono a proiettare l'insicurezza, le paure e le ansie dei cittadini verso questa specie di superpotere rappresentato da Bruxelles. Quelli che non governano attribuiscono in ogni caso a Bruxelles quello che attribuirebbero ai propri governi nazionali, cioè la responsabilità, diciamo, del malessere dei cittadini. È chiaro che in un contesto di crisi economica e sociale quale quello internazionale ma anche europeo in questi ultimi mesi, queste elezioni, ancor più del solito, se già lo sono di solito, ancor più oggi, rischiano di saldarsi appunto con una conferma dell'emergere di queste forze in tutte le società o in molte società europee. C'è però bisogno di una premessa. La premessa riguarda appunto quello che dicevo, i diversi piani, cioè le destre radicali e le destre conservatrici. Perché dico questo? Perché in realtà a livello europeo noi abbiamo assistito in questi anni a un progressivo inglobare da parte del vecchio mondo conservatore di temi caratteristici delle destre radicali. E quindi nel partire, diciamo, a descrivere la situazione europea, io metterei proprio l'accento su questo. Il primo elemento riguarda ovviamente il caso italiano. Con la nascita del Partito della Libertà, Alleanza Nazionale si trova di fatto a entrare nel blocco del Partito Popolare Europeo, di cui faceva già parte Forza Italia. Fino a questo momento gli eletti di Alleanza Nazionale in Europa stavano nel gruppo delle nazioni, eccetera, che era un gruppo autonomo delle nazioni che raggruppava praticamente movimenti di estrema destra, ma non quelli, diciamo, più radicali, anche se insieme ad Alleanza Nazionale sedevano in questo gruppo ad esempio i rappresentanti del Partito Popolare Danese, che è un partito come dire xenofobo, che ha fatto della lotta agli immigrati la propria caratteristica principale. Con l'ingresso di Alleanza Nazionale nel PDL e la prossima elezione dei suoi rappresentanti sotto i segni di questo partito, nel blocco del Partito Popolare Europeo arriveranno quindi anche i post-fascisti. E questo chiaramente contribuisce, sta contribuendo a ridefinire quello che sarà diciamo poi la politica del Partito Popolare Europeo in sede europea. Ma non è l'unico elemento di trasformazione. Nel blocco del Partito Popolare Europeo al Parlamento di Strasburgo sedevano i conservatori britannici, che hanno già annunciato di assumere una posizione che viene definita di euroscetticismo e di portare i propri eletti, una volta appunto arrivati al Parlamento, in un altro gruppo, in un gruppo diciamo che si formerebbe a partire da un incontro tra appunto i conservatori britannici e altri gruppi di destra conservatrice, che stanno però passando su posizioni critiche rispetto al modello in cui si realizza la politica europea. In particolare i democristiani di Klaus, parliamo della Repubblica Ceca, che in questo momento gestisce la presidenza di turno dell'Unione Europea, caratterizzandosi proprio, Klaus ha nel suo discorso diciamo di inizio di questo mandato della Repubblica Ceca in Europa definito l'Europa come il male assoluto in qualche modo. Bene, insieme a questi personaggi dal passato abbastanza legato a politiche anti-immigrazione eccetera eccetera, anche se il modello dei conservatori della Repubblica Ceca era sostanzialmente Silvio Berlusconi, si alleeranno i conservatori britannici. Questo elemento, diciamo, questi elementi segnalano gli spostamenti, e come vediamo sono comunque, perché è interessante nel nostro discorso, perché sono tutti spostamenti a destra, cioè il meccanismo centrifugo che è in atto dentro le forze della destra europea degli ultimi 15-20 anni non si arresta nemmeno oggi, e dopo le elezioni europee appunto dovremo registrare anche questi elementi. Dal punto di vista della vera e propria campagna elettorale, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in alcuni paesi dell'Europa occidentale, partiamo proprio dall'Inghilterra, la crisi sociale, sommandosi a elementi specifici nazionali, in particolare la crisi dei rimborsi spese dei parlamentari che sta scuotendo il Parlamento britannico, segnala nelle intenzioni di voto che i partiti minori euroscettici o di destra potrebbero essere in grado di raccogliere consensi. Quindi se da un lato i conservatori britannici potrebbero battere i laburisti, quindi spostando comunque a destra l'elettorato britannico, a destra della destra due movimenti che sono il British National Party, che come dire a maldestra si conosce abbastanza bene perché ne abbiamo già parlato, che è un movimento apertamente neofascista, che ha, tanto per dire, diciamo la caratura insomma come riferimento internazionale, Forza Nuova, e comunque rappresenta un po' il precipitare di tutte le culture neonaziste e neofasciste britanniche degli ultimi 50 anni, sostanzialmente un manipolo di banditi che ci prova ad ogni elezione, solo che questa volta, dopo aver raggiunto qualche risultato interessante recentemente nel corso di alcune elezioni amministrative, sembrerebbe che con le europee possa arrivare da qualche parte. Per segnalare diciamo il tipo di campagna, vi ricordo che per esempio il British National Party ha fatto degli spot elettorali in cui un gruppo di cittadini chiaramente appartenenti alla working class, si vede che sono muratori, operai, cioè hanno le tute da lavoro, i caschi in testa eccetera, prendono a torta in faccia e lanciano palloncini e cose verso un gruppo di personaggi che dovrebbero appartenere all'elite politica del paese, ingessati e bombetta, come a dire che è la rivolta del popolo verso le elite. Accanto al British National Party c'è poi la United Kingdom Independent Party, che è il partito che già nelle scorse elezioni europee di 5 anni fa raccolse non pochi consensi su una posizione di totale chiusura nei confronti dell'Europa. Sapete che la Gran Bretagna, come dire, è arrivata molto tardi al processo diciamo dell'Europa, ha ancora una posizione molto critica e molto distante diciamo dal resto della politica continentale, partecipa però a queste elezioni e questi sentimenti diciamo populismo, di euroscetticismo, di difesa dell'identità nazionale, di sospetto per i poteri di Bruxelles e di Strasburgo che potrebbero togliere qualcosa al Parlamento di Westminster, si è sempre espresso nel voto. In questo caso, questo United Kingdom Independent Party, che raccoglie figure di prevalentemente provenienti dall'ex partito conservatore, dal partito conservatore, diciamo, agita questo elemento dell'indipendenza e dell'identità nazionale, usano una vecchia immagine del periodo della guerra di Winston Churchill per dire Churchill non sarebbe stato d'accordo con, sottinteso, questa Europa. Questa è la situazione in Gran Bretagna. In Francia, in realtà, Le Pen, decano prossimo agli 80 anni del Parlamento europeo, si gioca l'ultima chance candidando anche sua figlia Marine Le Pen, ma sembra che in realtà sia ancora una volta Sarkozy a recuperare alla destra e all'estrema destra, con una campagna, malgrado lui sia Presidente della Repubblica, tutta centrata sull'immigrazione e la sicurezza. Anche qui da segnalare, diciamo, un particolare: qualche giorno fa alla Courneuve sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco contro le forze dell'ordine. In breve tempo questa vicenda di cronaca nera è diventata la leggenda dei Kalashnikov della Courneuve, in cui si dipingono i giovani di banlieue pronti ad utilizzare armi da guerra contro le forze dell'ordine. Il Presidente della Repubblica utilizza argomenti di questo tipo per in qualche modo veicolare il proprio messaggio d'ordine, malgrado sia lui poi che dovrebbe garantire, diciamo, l'integrazione sociale nelle periferie e anche, diciamo, un livello accettabile di convivenza tra le persone. Dalla Francia ci arriva pure un'altra notizia piuttosto inquietante, di una lista chiamata antisionista, ma che poi fondamentalmente vede tra i partecipanti Dieudonné, che è, insomma, uno dei personaggi più controversi, un comico di colore, no? Però fortemente schierato su posizioni poi antisemite, effettivamente, più che altro vicino ad ambienti del revisionismo storico. Pronto? Sì, calcoliamo che Dieudonné, diciamo, appunto, partendo da una posizione di critica radicale del colonialismo, dell'eredità coloniale francese, è arrivato a fare iniziative pubbliche con Jean-Marie Le Pen, con Robert Forisson, a sposare, diciamo, quella particolare critica allo Stato di Israele che viene operata dai negazionisti, che dicono: se non c'è mai stata la Shoah, perché mai sarebbe dovuto nascere uno Stato ebraico? La dico così, diciamo, in modo molto semplicista. Dieudonné in questi anni si è caratterizzato proprio da espliciti riferimenti all'antisemitismo nel corso dei suoi spettacoli, peraltro seguiti da un pubblico molto ampio, e ha cercato sempre di costruire in qualche modo sull'antisionismo, ma in realtà la contrapposizione tra comunità e contro gli ebrei, quindi in particolare in Francia, sta un po' montando, di costituire una sorta di partito delle banlieue. La sua idea è che invece che prendersela con, diciamo, le cause del malessere sociale delle periferie, africani e arabi, figli, diciamo, di chi ha subito il colonialismo francese, se la dovrebbero prendere con i rappresentanti principali dell'Occidente, che lui elegge ad essere gli ebrei. Insomma, una costruzione ideologica molto pericolosa, nella quale tra l'altro emergono spesso figure ideologiche della destra radicale che, quindi, cercano di usare questa lista, che però, diciamo, ricordiamolo, apparentemente si presenta come una lista, si è presentata, perché non è la prima volta, in realtà si era già presentata nell'Île de France in precedenza con una lista quasi di sinistra, se non di estrema sinistra. Dalla Francia al Belgio, dove la situazione è un po' sempre la stessa, nel senso che sul fondo delle elezioni europee in realtà riemerge il conflitto comunitario con, da parte fiamminga, il Vlaams Belang, il vecchio Vlaams Blok, che agita ulteriormente il tema dell'indipendenza. Sondaggi recenti parlano, appunto, di un numero crescente di fiamminghi disponibili a seguire quelle posizioni, e ben due partiti nella parte francofona, diciamo, elementi del vecchio Front National con un deputato ciascuno, che giocano anche qui la carta europea tutta in chiave, diciamo, di difesa della comunità francofona in alcune aree particolari come Bruxelles, e poi in chiave anti-immigrati. In Austria in qualche modo la situazione è ancora peggio, perché le elezioni politiche recenti si sono saldate con la vittoria sia del vecchio partito di Haider, sia che del partito nato, diciamo, dall'uscita dell'ex governatore carinziano, poi scomparso dal Partito Liberale, sembrano queste due formazioni, quindi una sfida tutta a destra della destra, che si potranno disputare in qualche modo le elezioni, anche perché sono le forze politiche che utilizzano il tema della crisi in modo più potente. Questa, diciamo, in particolare le condizioni più importanti nei paesi occidentali. Dall'altra parte, vale a dire in Europa dell'Est, la situazione è ulteriormente complicata, nel senso che questo fondo di euroscetticismo che descrivevo attraversa buona parte dei partiti conservatori. Il caso più evidente appunto è quello dei conservatori cechi, che hanno avuto per lunghi anni come modello Forza Italia, quindi su posizioni di centrodestra con qualche accenno xenofobo. Dopodiché è un po' tutta la situazione che appare molto complicata, nel senso che in Ungheria un movimento apertamente xenofobo, che tra l'altro recupera in qualche modo anche nella simbologia dei propri militanti, con vestiti insomma che sembrano usciti dal periodo delle guerre, tra le due guerre mondiali, l'eredità delle croci frecciate, diciamo, del movimento pronazista del paese, sembra, secondo tutti i sondaggi, in grado di conquistare parecchi voti e di raccogliere questo sentimento di ostilità verso le politiche nazionali. In più, questo elemento anche di inquietudine nei confronti dell'Europa. Dobbiamo considerare che per paesi entrati recentemente, insomma nell'arco degli ultimi 15 anni, dentro un sistema economico, quello del mercato globale, eccetera, l'implodere in qualche modo del sistema, l'arrivo della crisi, produce lacerazioni sociali ancora più forti di quelle che si possono conoscere in altri paesi, perché in qualche modo si è appena iniziato un processo anche di modifica della società, per cui è come se il baratro che si apre di fronte possa essere ancora più grande. Situazione abbastanza complicata anche in Bulgaria, dove il movimento di Attac, che è un movimento, anche qui siamo sulle posizioni di Forza Nuova, se non peggio, per chiarirci, insomma, quindi stiamo parlando di movimenti assolutamente estremisti e che non hanno nessun timore di rivendicare la propria filiazione culturale dai movimenti d'anteguerra, che ha due problemi sostanzialmente. Da un lato i turchi, in Bulgaria esiste una forte minoranza turca che esprime anche partiti politici e parlamentari, diciamo nel Parlamento di Sofia, e poi il problema degli zingari dal loro punto di vista, cioè il fatto che anche lì esistono, come in Romania e come in altri paesi, popolazioni stanziali tradizionalmente, una parte della popolazione appunto zingara che viene, si tratti di Sinti, di Rom, di altra origine, che viene indicata come responsabile di ogni male. Siamo più o meno a un'evocazione diretta dei pogrom, della possibilità di cacciarli per decreto o di istituire addirittura leggi ad hoc che possano colpire soltanto una parte della popolazione. In Romania c'è una situazione anche qui di rischio, c'è un movimento tradizionale che si chiama la Grande Romania, che si rifà in qualche modo, se non a Codreanu, cioè ai fascisti della Guardia di Ferro, al maresciallo Antonescu, quello che, diciamo, fece un colpo di stato pronazista nella Romania appunto degli anni 30, sembrano in grado di poter raccogliere consensi. Dopodiché c'è la situazione della Polonia, dove in realtà anche qui, un po' come nella Repubblica Ceca, c'è un presidente che è uno dei due fratelli Kaczynski, Lech Kaczynski, ultracattolici, sostenitori di Radio Maria, una radio che perfino i vescovi polacchi considerano troppo radicale sulla difesa dell'identità cattolica, la denuncia, diciamo, del deicidio da parte degli ebrei, eccetera eccetera. Bene, il presidente della Repubblica Lech Kaczynski non ha fatto mancare in tutti questi ultimi mesi dichiarazioni fortemente anti-europee, considerando che suo fratello guida il principale partito di centrodestra su posizioni simili. È chiaro che c'è anche qui un particolare cortocircuito, cioè quello che è lo stesso governo del paese, o una parte del governo, in questo caso il Presidente della Repubblica, che ha delle posizioni di antipolitica, anti-europee, tutte centrate sulla difesa degli interessi nazionali, in tono di difesa dell'identità nazionale, quindi di protezione rispetto ai diversi, eccetera, eccetera, migrazioni, nomadi e quant'altro, e che evoca questo come elemento di difesa rispetto alla politica che potrebbe arrivare dal Parlamento europeo. Diciamo che questo è un po' lo scenario, così un po' descritto al volo come possibilità elettorali e anche come linee politiche. Pronto? Sì. No, io infatti su questa cosa pensavamo di andare anche un po' a chiudere, dato insomma l'orario nostro consueto, però effettivamente è uno degli aspetti che vorremmo cercare di approfondire, soprattutto dopo, capendo anche come si rimodulano geografie politiche che poi in Italia hanno, magari sembra relativo riverbero, ma l'abbiamo visto anche l'agibilità politica che hanno avuto alcuni movimenti negli ultimi anni, ha dovuto anche alla presenza sulle poltrone di Strasburgo di esponenti dell'estrema destra neofascista italiana. Quindi un po' su questa cosa probabilmente sarà il caso di poi di approfondire. Sì, okay. Posso dire solo un'ultima cosa, sarà importante vedere alla luce dei risultati elettorali come si ricostruiscono, riformulano i gruppi parlamentari al Parlamento europeo, perché è evidente da quanto detto fin qui che è possibile che i gruppi, diciamo in qualche modo, che vanno dal populismo di destra ai sentimenti euroscettici, alla xenofobia, alla lotta anti-immigrazione, possano avere molti voti. Bisognerà vedere se si metteranno insieme, se troveranno un minimo comune denominatore, come è accaduto in passato nel Parlamento europeo, e che cosa questo accadrà in termini di riverbero nelle diverse realtà nazionali, perché per la prima volta con i numeri dell'Est era già accaduto per la fiamma tricolore, ad esempio, è grazie ai gruppi dell'Est appena arrivati al Parlamento europeo, delle destre estreme elette in quei paesi, che poi si sono potuti costituire dei gruppi parlamentari al Parlamento europeo di estrema destra. I partiti dell'Ovest non avrebbero avuto voti a sufficienza, ad esempio in questo caso con i voti che arrivano da quello che era il vecchio blocco socialista questo è possibile, per cui all'indomani del voto sarà molto interessante descrivere questa geografia, che poi può voler dire spesso anche legami internazionali e sostegni magari a movimenti che non hanno chance di prendere voti nel loro paese, come il caso dell'Italia, ma che poi hanno legami internazionali con questi gruppi. Va bene, allora con te chiudiamo e andiamo a chiudere anche l'appuntamento di quest'oggi. Ok, ciao, grazie. E chiudendo, giusto ricordando i riferimenti della radio, di questo spazio di osservatorio antifascista, www.ondarossa.info il sito della radio, maldestra.noblogs.org per chi volesse riascoltare le scorse trasmissioni e magari dare un occhio, buttare un occhio anche sugli altri contenuti del blog. Chiudiamo con un ultimo appuntamento che mi ricordano dall'esterno, una cena per sostenere le spese legali per il processo per l'omicidio di Renato Biagetti, per sostenere le spese che la famiglia ha dovuto affrontare in questi ormai quasi 3 anni senza Renato, un processo che si è di recente avuto l'ultimo capitolo, almeno per quanto riguarda Vittorio Emiliani, il maggiorenne all'epoca dei fatti, confermati in Cassazione 15 anni per omicidio. Ovviamente non è la questione della pena che è centrale, quanto quella del riconoscimento di non ridurre quell'omicidio a freddo, quell'aggressione a freddo, come una semplice aggressione o una semplice rissa o un atto di cosiddetto bullismo. Noi chiudiamo qui trasmissione domani, quindi allo Acrobax una cena di sottoscrizione per le spese legali che famiglie, amici e compagni di Renato hanno affrontato per gli ultimi passaggi giudiziari, e con questo ci salutiamo e l'appuntamento è a martedì prossimo. Arrivederci. Mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades, romance. marche, une revanche impossible. On est tous fils de la Kibla. La Kibla, go Mike en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles.